ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Oggi ho pensato di dedicare la puntata ai genitori, ai nonni, agli zii che sono in attesa della riapertura della scuola e hanno un pochino di timori, di apprensione. In fondo ci si chiede se la riapertura della scuola produrrà, si accompagnerà ad un aumento dei casi. Beh, i dati oggi a disposizione sono confortanti. Se si rispettano le misure di prevenzione, il rischio è molto basso. Basso il rischio di diffusione da bambino a bambino e molto rara anche la trasmissione da bambino ad adulto. Ma ci facciamo raccontare tutto dalla professoressa Susanna Esposito, che è in linea con noi, ordinario di pediatria all'Università di Parma e presidente dell'Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e Disordini Immunologici. Buongiorno professoressa. Grazie a tutti, buona giornata. Professoressa Esposito, ci racconti questi dati, ci tranquillizzi, perché sì, se si rispettano le misure di prevenzione tutto dovrebbe andare liscio. Sicuramente, i nostri dati in realtà sono una revisione delle pubblicazioni disponibili sul tema SARS-CoV-2 e bambini in merito a quella che è l'eliminazione virale in rapporto ai sintomi in merito a quelle che sono le problematiche di trasmissione dell'infezione. Quello che si osserva è che nei primi 6 anni di vita i bambini hanno una scarsa espressione dei recettori cosiddetti ACE2 e di conseguenza questi recettori, che sono essenziali per la penetrazione del virus nelle cellule, fanno sì, non essendoci, che la probabilità di ammalarsi sia ridotta rispetto a quella che si osserva in altre fasce di età, e di conseguenza anche la replicazione virale è ridotta. Due sono i punti fondamentali, però: non è che ridotta vuol dire che i bambini non si infettano. I bambini si infettano, tendono più spesso, decisamente più spesso rispetto agli adulti e agli anziani, ad avere l'infezione senza sintomi, quindi ad essere dei portatori asintomatici o paucisintomatici, quindi con dei sintomi modesti. Tra parte, a partire dai 6 anni di età in su, la sintomatologia progressivamente e la probabilità di essere sintomatici si avvicina a quella degli adulti, e soprattutto pensando agli adolescenti, considerato lo stile di vita, è importantissimo ricordare l'importanza delle mascherine in età adolescenziale e soprattutto l'attenzione a una tipologia di vita in cui vengono appunto evitati gli assembramenti e ci sia un adeguato lavaggio delle mani. Certo, ma il messaggio, cui... professoressa Esposito, mi aiuti a capire bene, è che la riapertura delle scuole non costituisce un pericolo per la salute globale. Assolutamente, ecco. Questo ce lo dimostrano i dati raccolti in moltissimi paesi. Naturalmente aprire le scuole non vuol dire liberi tutti, aprire le scuole vuol dire attenzione, vuol dire sorveglianza dei casi, tracciamento laddove ci siano dei singoli focolai. Leggevo proprio di recente notizie di cronaca che dicevano 4 persone nelle scuole positive. Beh, certo, non è che non ci saranno persone positive, ci saranno di sicuro dei positivi, ma questi vanno prontamente identificati, ci deve essere un medico referente che possa intervenire e far sì che la scuola, quello che sarà, certo, il tampone. Ci devono essere dei percorsi, questo è molto importante, però di sicuro in tutti i paesi in cui le scuole sono state aperte non c'è stato un aumento della circolazione di Covid e di casi mortali da SARS-CoV-2, per cui questo è un altro elemento. Insomma, poi è giusto, è importantissimo che i bambini, i ragazzi tornino a frequentare la scuola, perché a scuola si diventa grandi. Infatti è ormai sottolineato il ruolo primario dell'istruzione proprio per lo sviluppo psichico e sociale, oltre che, professoressa Esposito, e c'è una ricerca tutta italiana che ha dimostrato, ha misurato l'impatto psicofisico della chiusura delle scuole sui bambini e sui ragazzi, sulle relazioni, sul loro umore, sulla loro sicurezza. Ci vuole fare una fotografia di questi dati? Da subito subito quello che è emerso come pediatra, insomma, stando in mezzo ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, era comprendere che la didattica a distanza, che ha creato indubbiamente anche dei disagi, soprattutto per famiglie con più figli, magari anche con i genitori in smart working, non è che tutti hanno una stanza per ogni individuo, un computer per ogni individuo, pensiamo a una famiglia di 3 figli con 2 genitori lavoratori, è chiaro che anche l'organizzazione era complicata. Ma quello che si è notato era non tanto un problema nozionistico, che può essere naturalmente così sopperito dalla didattica a distanza, quanto proprio un problema di socializzazione, di confronto che avviene al di fuori dalle mura domestiche, al di fuori dall'ambiente strettamente familiare. E quello che si è osservato è che gran parte degli intervistati presentava un quadro, diciamo così, tipo depressivo, con un sentimento di solitudine, piuttosto che molti dichiaravano di essere proprio tristi per il fatto di non andare a scuola. Poi se si parla con i ragazzi, alla fine i ragazzi magari non stanno attenti in classe, però ti dicono che capire in classe è molto più facile che capire a distanza di per sé, perché stare collegati 6 ore tutti i giorni con le cuffie, piuttosto che insomma, nella propria stanza al computer, è estremamente noioso, quindi fa perdere l'attenzione, fa perdere l'interazione, e come sappiamo poi laddove si riduca la possibilità di discussione di gruppo, anche i dubbi, i quesiti, le problematiche vengono molto meno affrontate. La ricerca ha evidenziato anche un aumento dei disturbi del sonno, che è così importante. Professoressa Esposito, voi medici continuate a ripetercelo che il sonno nutre davvero la nostra salute e anche quella dei nostri bambini, eppure disturbi del sonno in aumento tra i piccoli e tra gli adolescenti. Soprattutto tra gli adolescenti. Un dato interessante è il fatto che il sonno si collega a 2 elementi, anche uno stato di depressione. Sappiamo come il disturbo del sonno spesso si associa anche ad ansia piuttosto che a stato depressivo, e l'altro elemento è chiaro che l'avere poca attività faceva sì che questi ragazzi fossero molto annoiati, si sentissero sempre stanchi anche di giorno, ma realmente poi di notte non riuscivano a dormire in modo continuativo, quindi l'energia dei ragazzi non veniva incanalata verso quelle che sono le attività rutinarie che normalmente riempiono la loro giornata e le loro forze, e questa noia, questo atteggiamento anche molto videodipendente dal computer per la didattica, ma pensiamo ai cellulari, a comunicazioni di questo tipo, e l'isolamento determinavano sicuramente una situazione di questo genere. Sappiamo come spesso i ragazzi magari la domenica sera dopo il weekend hanno difficoltà a addormentarsi proprio perché sono più riposati, sì. E così questo è emerso chiaramente nella nostra ricerca. Professoressa Esposito, mascherine. Ecco, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato delle indicazioni precise: da 0 a 5 anni non deve essere indossata la mascherina, e la motivazione è proprio da ricercarsi, come lei ci ha spiegato, nel fatto che il bambino piccolo ha un ruolo minore nella diffusione della malattia, e poi anche perché non è in grado di utilizzare la mascherina nel modo adeguato, perché utilizzarla male, questo vale anche per gli adulti, è come non utilizzarla. Certo. A mano che si cresce però la situazione cambia. Ci vuole dare qualche suggerimento, anche così siamo pronti a utilizzare le mascherine nel modo corretto, e anche dobbiamo insegnare, se ancora non l'abbiamo fatto, ad indossarla nel modo corretto ai nostri ragazzi, raccomandandoci con loro. Innanzitutto ci terrei a precisare che l'indicazione a non indossarla nei primi 6 anni di vita nelle comunità scolastiche non deriva dal fatto che è pericolosa, perché a un certo punto è comparsa così una fake news che sembrava indicare come le mascherine nei primi anni di vita quasi potessero causare ipossia piuttosto che altri problemi clinici. Le mascherine non causano nessun problema clinico, questo è ben noto e la dimostrazione la si ha in tutti i pazienti con patologie croniche significative anche dei primi anni di vita, come fibrosi cistica piuttosto che tumori, che sono costretti a indossare la mascherina. È chiaro però che laddove ci sia una comunità, come può essere quella scolastica, nel caso specifico gli asili nido e le scuole materne, dove di fatto il bambino sta molte ore, perché la scuola materna laddove faccia il bambino tempo pieno sta dalle 8 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, di fatto la mascherina tenuta tutto il giorno può dar fastidio, il bambino non è in grado di gestire adeguatamente il suo utilizzo, quindi rischierebbe poi di buttarla in maniera inappropriata, non certo, nel contesto della mondizia, eccetera. Quindi il basso rischio di trasmissione dell'infezione e questa difficoltà a utilizzarla nel modo corretto, certo, hanno portato a considerare che in questi casi specifici l'indicazione sia quella che gli insegnanti indossino la mascherina e invece i bambini no. Ovviamente però, siccome i bambini nei primi 6 anni di vita hanno spesso la febbre, è molto importante mantenere un'allerta sulla diagnosi dei casi che si manifestano sintomatici eseguendo il tampone. Questo è il primo punto. Poi da 6 agli 11 anni va valutata la situazione epidemiologica. Caso per caso, sì, certo. Se sta circolando tanto il virus, se ci sono delle epidemie in alcuni classi, sicuramente va indossata. Laddove ci sia una circolazione minore, o in momenti in cui ci sia una circolazione minore, se poi le classi sono tali da mantenere il distanziamento, allora quando si è seduti al banco si può non indossarla. Naturalmente nei momenti di entrata, di uscita da scuola o all'intervallo va indossata, questo è il punto fondamentale. Per cui come al solito il concetto è anche il buon senso, sono i momenti di aggregazione. Dai 12 anni in su invece il comportamento deve essere pari a quello degli adulti, quindi se c'è il distanziamento può non essere indossata. Va però precisato che laddove per motivi organizzativi, le cose che si leggono sui giornali in questi giorni, il distanziamento non sia stato possibile, l'utilizzo della mascherina permette comunque di frequentare la scuola in sicurezza e quindi poi ci si organizzerà per il distanziamento, per tutto il resto, ma intanto usiamo la mascherina. Professoressa Esposito, usiamo la mascherina, ma usiamola nel modo corretto. Ci ripete le regole di un corretto utilizzo? Sì, innanzitutto la mascherina deve essere in grado di coprire naso e bocca. Non va tirata sotto il mento laddove ci siano condizioni che non prevedano un distanziamento adeguato o messa nella bocca. Una volta che è sfilata dal volto, o viene, se è una mascherina in tela, messa in una borsa o in un contenitore, oppure deve essere gettata nella spazzatura, non per terra, perché ahimè tutti i giorni si vedono mascherine buttate per terra in malo modo. Quindi anche dal punto di vista degli insegnanti e dei genitori è fondamentale educare i bambini e i ragazzi a indossare la mascherina e a buttarla nei modi più opportuni. L'altro elemento è quello relativo alla durata dell'effetto della mascherina. È chiaro che dipende molto dalla finalità dell'impiego. Nel caso specifico, quindi nel prevenire che il soggetto che sia portatore diffonda il virus, laddove uno utilizzi una mascherina intera lavabile, allora chiaramente la può tenere anche tutta la giornata. Per quanto riguarda invece le mascherine, quelle monouso, fondamentalmente la loro durata è di 4-6 ore e quindi nel caso uno può utilizzarlo nella singola giornata scolastica e poi indossarne una successiva il giorno dopo. Ecco, questo è un po' l'atteggiamento che può essere tenuto. Professoressa Esposito, grazie per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi. E io vi aspetto come sempre a mezzogiorno con le notizie che arrivano dal mondo della ricerca e con i nostri appuntamenti video. Buona giornata da Nicoletta. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.